It is later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non più. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli la vita torna alla normalità, Drago è rimasto da solo, mentre K se la spassa a Barcellona. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Hola? Hola, hola. Hola. Che hola, pronto? E sto bibendo una cerveza che non tenía bastante collo. Non so se mi comprende. Se io adesso ti passerei un mio amico, si chiama Ibo. Ibo. E ti esplica il problema del collo della cerveza. Ibo è un mio amico spagnolo che sa chi conmigo. Ibo. Sì, vabbè, guarda te. Hola. Ibo. Hola, sì, buon dia, sono Ibo. Buon dia, Ibo. Desde España. Come stai? Tutto bene? Ma dove stai tu? Io sono in Barcellona in questo momento. Sì, sì. E tu dove stai? Tu eres Drago? Molto gusto, sono Ibo. Ibo, molto gusto, piacere. Drago. Molto piacere, Drago. E io sono in una fabbrica de pollos. La fabbrica de pollos? Tu eres a Barcellona e io in mezzo alla merda. Ah, ok, lo sento, no. Perdóname, no, estaba hablando con mi amigo Gaetano, que ci hanno servito, una birra, una cerveza, no, lui la tenía con el cuello, e yo la tenía sin cuello, però non è bene questa cosa, perché non va benissimo. Senza collo? Senza collo, sì, proprio la barretta di schiuma, sì. che insomma faccia capire che è stata spinata, come si deve. E invece capisci? La tua era senza schiuma. E la mia era senza schiuma e cioè, perde proprio tutta la poesia del bersi una birra in compagnia. Ma cosa Jack Kerouac? Una cosa del genere. Ma cosa stai dicendo? È letteratura americana, Ivo. No, lo so, però perché appunto abbiamo conosciuto un nostro amico che ci ha presentato una nostra amica che si chiama Jack e Kerouac di cognome ed è cinque punte, è una bella fogliolina simpatica e ci attrae, ci violenta ogni sera, non capisco. Ma come vi violenta ogni sera? Sì, perché poi io, Gaetano e altri amici stiamo assieme in compagnia anche di questa fogliolina che ci prende, ci piglia, ci violenta. Maria. Come vi violenta? Maria, sì. Vi violenta? Maria. Sì, la Maria, sì, insomma, si chiama Maria, è una bella signorina. Maria Jack Kerouac. La Maria, che è la Maria, e Jack Kerouac è la fogliolina di Maria. La fabbrica di polli. Questa è la mela di Odessa, degli Area, dall'album Crack del 1975. In the middle of nowhere. Hey, fabbrica di polli. Tarek, io vorrei che tu incominciassi a capire un po' di musica. Perché te, quando ascolti la musica con i tuoi amici, cos'è che ascolti? Eminem. Com'è Eminem? Eminem quello bianco che fa rap? Lui. E allora non ci siamo, Tu devi imparare. E ti insegno io. Tutti ti dicono, blues, rock and roll, jazz. No, la musica vera è quella degli anni 70. Capito? Tu gli anni 50, 60 te li puoi dimenticare. Ti lascio un disco del 67, che è Sgt. Pepper dei Beatles. Scrivi Beatles, ecco. Poi saltiamo al 69. Qui devi ricordarti, scrivi King Crimson. E l'album è In the Court of the Crimson King. Ecco, quello lì è uno spartiacque, Cioè, prima è quello e dopo quello. Hai capito? È il gruppo di Robert Fripp, Il chitarrista. Greg Lake, il cantante che poi è andato dell'Emerson Lake Palmer. Il disco col faccione, no? Bello, Poi ti dico Soft Machine. Robert Wyatt, Mike Rutledge, Elton Dean. Ecco, devi prendere di quello, segna. Il terzo disco, che si chiama Terzo, Third. E quello lì è pesantissimo, Però è bello, Il giorno in cui mi scarico, gratuite dalla rete, le scarpe da ginnastica che tanto a me mi piacciono, sarò contento anch'io, amico che ti scarichi, gratuita dalla rete, la mia musica fantastica, fin tanto che lo scambio eco non avviene, io sono parte lesa di questa innovazione. Tu ascolti la mia musica e io cammino scalzo. Saluta Gates e Jobs e digli che li ammazzo. La fabbrica di polli. Pollo? Pollo? Pollo in sbattimento? Dove sei? Non c'è. Pure ormai abita qui nella cappella di San Gallo. Non c'è nemmeno nel tabernacolo. Sembra che qui spariscano tutti. Non mi sorprenderebbe che il pollo in sbattimento fosse a Barcellona con K. Quello è in sbattimento soltanto per finta. Sta meglio di me, altro che. E questo catafalco cos'è? Ah già, il confessionale elettrico. Devo ancora avere qualche gettone che ho rubato al pollo che li ruba a fra qualunque, che a sua volta è un ladro perché un frate che spinge i suoi fedeli a confessarsi in una struttura a pagamento, è un ladro, no? Proviamo questo confessionale elettrico. Fedele, era tanto che ti aspettavo. Ah sì? E come mai? Perché in te ho intravisto i segni della santità. Che cosa? Le tue stigmati sono un segno indubitabile. E anche le piaghe al costato. Ma quali stigmati, quali piaghe al costato? Non fare il modesto. E tu non fare il molesto. Io non ho mai molestato quel ragazzino. Parlo solo con il mio avvocato. Ma quale ragazzino, quale avvocato? Cosa stai dicendo? Non invadete la mia sfera privata e premete il tasto resume. Non invadete la mia sfera privata e premete il tasto resume. Non invadete la mia sfera privata e premete il tasto resume. Fedele, confessa i tuoi peccati a voce sufficientemente alta affinché il microfono possa registrarla con la dovuta efficacia. Poi premi il tasto. Si è resettato. Adesso devo ricominciare da capo. Padre elettrico! Padre elettrico! Padre elettrico! Ma si è addormentato. Che cosa succederà adesso? Finirà la vacanza psichica di K a Barcellona? Per saperlo non potete far altro che sintonizzarvi domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo lisergico allestimento de... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli produce, non chiude. Bar numero